Italia, e dice un mon ami della France per la Italia K. Se chiudi X dalla Sardegna, la città di Sassari, nord Sardegna, Italia chiama, perché? Nord Sardegna, la città di Sassari, la città di Sassari, Nord Sardegna, operatore Gianfranco, QRZ Papperino, Papperino, avanti ancora Gianpun. Ok, Gianpaolo, fa piacere anche a me, fa piacere anche a me ascoltarti. Santiago 4, Radio 3, disturbata con QRM, QRM, Radio 3, segnale 4, segnale 4, Radio 3, molto QRM, non è buona la propagazione, è un po' scarsa, propagation scarsa, avanti ancora Gianpaolo. Bye.